Ritornerai, lo so, ritornerai. E quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre, e riderai. Quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai. Ritornerai. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo